Le scelte di fine vita sono scelte personali, delicate, e che ancora nel nostro paese non c'è una normativa che garantisca la libertà di scelta. La libertà di scelta perché può essere esercitata da tutti, oppure si può rinunciare ad esercitare quella libertà, ma se c'è una legge si può agire con parametri sicuramente più chiari, precisi, che evitano quell'attesa di Fabio da 6 mesi di una risposta di un'azienda sanitaria regionale sulla tipologia di farmaco, le modalità, come è stato previsto dalla Corte Costituzionale, dove ci siano tempi certi e le sofferenze, la volontà di una persona capace di scegliere, di autodeterminarsi, siano al primo posto nell'interesse e nell'agire di queste pubbliche amministrazioni. Dopo appunto lo stop al referendum, in Senato c'è una legge sul fine vita, a che punto siamo? Va molto a rilento, stanno cercando di bloccare questa legge che, dobbiamo essere realisti, è una legge che per essere una buona legge deve essere emendata, perché proprio quella legge non prevede tempi certi per la risposta alla persona che vuole procedere con il suicidio medicalmente assistita. Quella legge prevede discriminazioni tra tipologie di malati. Pensiamo a un malato oncologico che non ha ancora trattamenti di sostegno vitale, è escluso dalla possibilità di poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Inoltre, la Corte Costituzionale non ha messo il referendum sull'eutanasia, ma ha invitato nella sentenza di inammissibilità il Parlamento a legiferare con una norma adeguata. Quella legge non prevede anche nel caso in cui una persona sia nell'impossibilità di autosomministrarsi il farmaco, di poter procedere quindi con l'azione di un terzo, che significa eutanasia. Quindi i tempi sono molto lenti al Senato, manca meno di un anno alle prossime elezioni, e in questo modo non ci sarà modo di emendare la legge e renderla una buona legge di cui gli italiani hanno bisogno. Immagino sia una domanda che sente farsi molto spesso, ma il problema del Parlamento cos'è? Un problema politico, culturale? Tutte le volte che si parla di libertà delle persone è come se il nostro legislatore dimenticasse che rappresenta gli italiani che vogliono scegliere, che hanno opinioni diverse, sì, ma che vogliono scegliere, vogliono essere anche attivi nella democrazia del nostro paese. Pensate che 1.240.000 persone hanno firmato per un referendum su cui non andremo a votare alla prossima tornata, nei prossimi giorni, perché non è stato ammesso, però hanno firmato affinché potessero dire la loro su un divieto, il divieto di eutanasia nel nostro paese. Questo cosa significa? Che la partecipazione dei cittadini a queste scelte è forte, è importante, e il legislatore dovrebbe tener conto di questa volontà dei cittadini. Le buone leggi servono sia a chi un giorno vorrà procedere con scelte di fine vita legali nel nostro paese, e sia a chi quelle scelte non le vorrà mai fare, perché non si vedrà mai imposto nulla.